Este palato, cheche palos me, que este palato y el, este palacio. Este palato, cheche palos me, este palacio. Este palato, cheche palos, me escuchaba con loco, me escuchaba con loco. Che palo, che palo. Che palo, che palo. Ma cucciava colo, ma cucciava colo. Che palo, che palo. Che palo, che palo, no. Che palo, che palo, che cucciava colo, che palo, che palo, che palo.